Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Emergenza coronavirus, il ministro della Salute Speranza in Parlamento. L'Italia sta meglio di altri paesi, ma non dobbiamo farci illusioni. Il nuovo DPCM prevede l'obbligo di mascherina all'aperto, nessun cambiamento per bar e ristoranti. Fisica, il Nobel va a Penrose, Genzel e Goetz, gli scienziati che hanno scoperto il mistero dei buchi neri. Sport, Italia protagonista all'internazionale di Francia di tennis con Trevisan e Sinner in campo nei quarti di finale. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con l'attesa per il nuovo DPCM che potrebbe essere approvato questa sera dal Consiglio dei Ministri, chiamato a valutare, a dare via libera anche alla proroga dello stato d'emergenza, al momento in scadenza il 15 ottobre. Ad anticipare le misure, nessuna stretta in vista per le attività produttive, ma l'obbligo di mascherina anche all'aria aperta, è stato questa mattina il ministro della Salute Speranza. L'Italia sta meglio in questo momento, i numeri sono chiari rispetto agli altri paesi europei, quello che sta reggendo meglio questa seconda ondata, ma non dobbiamo farci alcuna illusione. Queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza oggi alla Camera, illustrando le misure del nuovo DPCM per il contenimento della pandemia. Tra queste l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto su tutto il territorio nazionale e proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021. Inoltre aumento dei controlli perché gli assembramenti sono un rischio reale. Basso impatto invece per ora e buona capacità di tenuta nelle scuole grazie a solidi protocolli. Non bisogna dividersi sulle indicazioni fornite dalla comunità scientifica per contrastare il coronavirus, ha ribadito il ministro Speranza, perché i prossimi mesi non saranno facili, ma saranno mesi di convivenza in attesa delle cure. Poi Speranza ha sottolineato la necessità di recuperare lo spirito di unità nazionale manifestati a marzo-aprile, quando la pandemia ci ha colpito duramente. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo sull'argomento, facciamo il punto sull'Italia. Mentre a Civitavecchia è spuntato fuori anche il primo caso di test falsificati. L'infermiera di Civitavecchia rubava i kit per il Covid sul posto di lavoro e poi insieme al compagno, finto medico, effettuava falsi tamponi a pagamento senza farli analizzare. A tutti i clienti davano attestati di negatività fasulli stampati su moduli rubati sempre in ospedale. L'indagine rivelata dal Messaggero è condotta dal PM di Civitavecchia con capi di imputazione per ora di falso e truffa. 7 persone sono invece indagate dalla Procura di Foggia per aver venduto alle ASL tra marzo e aprile 45.000 mascherine con false certificazioni e a un prezzo esagerato. In Campania è entrata in vigore l'ordinanza del presidente De Luca che impone la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, compresi bar e ristoranti, dalle 23 alle 6, misura su cui il sindaco di Napoli, De Magistris, avverte la crisi porterà le imprese nelle mani della mafia. In Italia sono 2.257 i nuovi contagi da Covid-19 nell'ultimo bollettino, meno dei giorni scorsi ma con soli 60.000 tamponi e un rapporto positivi su tamponi che sale così al 3,7%. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi allerta gialla per, abbiamo cambiato argomento naturalmente, allerta gialla per il maltempo in 6 regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto. Altre 2 vittime ieri in Liguria, che insieme al Piemonte chiede lo stato di calamità dopo l'ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi il nord-ovest. Dopo tante discussioni, il governo ha approvato ieri sera la modifica dei decreti sicurezza. Sul fronte immigrazione nasce il sistema di accoglienza e integrazione con un sistema diversificato tra richiedenti asilo e titolari di protezione che avranno maggiori strumenti di integrazione. Si agevola anche la permanenza in Italia per chi trova un lavoro. Stop alle multe milionarie alle ONG. Sentiamo. sia il permesso per protezione speciale se in caso di rimpatrio lo straniero rischia non solo la tortura ma anche trattamenti inumani o degradanti o la violazione del rispetto della sua vita privata e familiare. È una delle novità contenute nel decreto sicurezza. Per le ONG che violino il divieto di navigazione spariscono le multe fino a 1 milione, si scende da 10.000 a 50.000 e vengono fatte salve le operazioni di soccorso tempestivamente comunicate. Il divieto, con la limitazione di transito per le navi che i decreti Salvini avevano riportato al Ministero dell'Interno, torna in capo al Ministero dei Trasporti. Ad 1 mese dall'omicidio di Willy Duarte si stabilisce per i protagonisti di disordini o atti di violenza che il questore possa disporre il DASPO da specifici locali. Se violato c'è la reclusione fino a 2 anni e una multa fino a 20.000 euro. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre in serata, via libera dalla parte del governo anche alla nota di aggiornamento al DEF, con il taglio delle tasse ai lavoratori, gli investimenti pubblici consentiti anche dai fondi europei del Next Generation. Allora facciamo il punto anche su questo, mentre proprio in questi minuti sta intervenendo all'Assemblea Nazionale di Confcooperative il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Teresa Trillò. Salve, buongiorno. Dunque, contro la crisi innescata dal Covid, il governo punta a coinvolgere le migliori energie del paese, ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo all'Assemblea di Confcooperative, appunto come dicevi. Intervenendo ha detto anche che la battaglia contro la pandemia non è ancora vinta e la guardia deve rimanere alta. Sentiamo Conte e poi torno. Lo stiamo ripetendo in questi giorni, perché nessuno abbia la tentazione di abbassare la guardia. La soglia di attenzione che deve rimanere massima anche nelle settimane e nei mesi a venire. La crisi può essere un'opportunità per il rilancio, dice Conte, e con il Recovery Fund l'Europa ha finalmente abbandonato per la prima volta una prospettiva di austerità in favore di un modello di sviluppo verde, sostenibile e digitale. E secondo la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza approvata proprio ieri sera dal Consiglio dei Ministri, grazie alle risorse del Recovery Fund la prossima manovra sarà nell'ordine dei 35 miliardi. Il livello del PIL pre-Covid si dovrebbe raggiungere nel 2022, si spiega nel documento. E fra gli obiettivi del governo c'è un patto fiscale che premi la fedeltà fiscale, fedeltà che passa attraverso un fondo nel quale far confluire i proventi della lotta all'evasione da restituire sotto forma di calo tasse. Per ora è tutto e vi restituisco la linea. Grazie a Teresa Trillò. Adesso andiamo all'estero, perché il presidente del Consiglio, il presidente americano, scusate, Donald Trump è tornato alla Casa Bianca dopo il ricovero per il Covid. Sentiamo. Continua la corsa del coronavirus nel mondo. Ha superato quota 210.000 il numero dei morti negli Stati Uniti, paese più colpito in termini assoluti, con oltre 7 milioni di casi registrati finora. Impennata nelle ultime 24 ore di nuovi positivi, 29.000 di decessi, oltre 2.500 in Messico. Curva in salita anche in Russia, con 1.000 ricoverati ogni 24 ore, e si pensa ad un lockdown per Mosca. In Europa intanto la Scozia chiude per 2 settimane un mini lockdown dopo che lunedì sono stati registrati 697 nuovi casi, con un balzo dei ricoveri da 8 a 218. Resta critica la situazione nell'intero Regno Unito ed è caos sui conteggi dopo che 16.000 nuovi positivi sono sfuggiti alle statistiche ufficiali. Allerta anche in Francia, dove restano chiusi tutti i bar, vietate le feste, i congressi e le fiere. E continua a diffondersi il virus nelle istituzioni. In Austria uno stretto collaboratore del cancelliere Kurz è risultato positivo. 159 i contagiati nello staff della Commissione europea. Nessuna nuova infezione invece trasmessa a livello locale nella Cina continentale. Solo 12 casi confermati provenienti dall'estero. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Era la notizia attesa di carattere scientifico. Il premio Nobel per la fisica 2020 è andato agli scienziati che hanno scoperto gli oggetti più oscuri e misteriosi dell'universo, i buchi neri. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Physics. Con un inconsueto ritardo di 15 minuti, l'Accademia Reale Svedese delle Scienze a Stoccolma ha annunciato il premio Nobel per la fisica 2020, conferito a Roger Penrose, Andrea Ghis e Reinhard Genzel, premiati per il loro contributo nello svelare i segreti più bui dell'universo. Dunque le motivazioni. Penrose della Oxford University per aver scoperto che i buchi neri sono una diretta conseguenza della teoria generale della relatività elaborata da Albert Einstein. Genzel e Ghis per la scoperta di un oggetto compatto di massa enorme e invisibile che si trova al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Ad oggi si pensa proprio possa trattarsi di un buco nero supermassiccio. Questi studi sono fondamentali per le loro applicazioni e per la comprensione dei meccanismi del nostro universo. Andrea Ghis è la quarta donna a ricevere il premio Nobel per la fisica dal 1901. L'annuncio è stato dato online, pochissimi presenti nella sala delle cerimonie per via delle restrizioni imposte dal Covid. E per la prima volta nella sua storia anche la cerimonia di premiazione in programma per il 10 dicembre sarà virtuale. Previsto per domani sempre alle 11.45 l'annuncio del Nobel per la chimica 2020. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Del Pino, è risultato positivo anche lui al coronavirus in seguito al test effettuato ieri. Presidente sintomatico in isolamento presso la propria abitazione, seguirà le procedure previste naturalmente dal protocollo sanitario. E invece per quanto riguarda il caso Juve-Napoli, dopo il chiarimento di ieri sui ruoli della ASL e sul valore del protocollo tra il CTS e la Lega Calcio, si attende anche la decisione del giudice sportivo proprio sull'esito di questa partita. Invece per il tennis, Italia protagonista del grande tennis oggi a Parigi. Una sfida ai propri sogni, alle proprie paure e poi, eppure quello non è problema da poco, agli avversari che troveranno dall'altra parte della rete. Questo strano Roland Garros da turno che prova a sfuggire al Covid al freddo con spalti vuoti e maniche lunghe ci consegna le favole di Yannick Sinner e Martina Trevisan. L'altoatesino è il Leclerc della racchetta, predestinato ad appena 19 anni a diventare un big. E allora oggi l'esame più grande, fatto fuori il numero 7 del mondo Sasha Zverev, ecco sua maestà Rafa Nadal, sovrano della terra rossa parigina che ha trasformato nel proprio giardino di casa, trionfandoci sopra 12 volte. Serviranno grinta, pazienza, testa e cuore, le stesse doti che ha finora messo in mostra la Trevisan. 26 anni, toscana, l'azzurra è rinata dopo essere uscita dal tunnel dell'anoressia. Tra lei e la semifinale la polacca Swiatek, sperando in un pomeriggio tutto azzurro su quella magica terra rossa. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 12 minuti, facciamo un break. Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dalla campagna per la vaccinazione anti-influenzale, numeri e incognite nelle diverse regioni. Intimissimi Uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Effetto Giorno. Ecco le notizie di oggi. Il ministro della Salute e Speranza alla vigilia del nuovo DPCM. L'Italia sta meglio degli altri paesi, ma non dobbiamo illuderci. Fisica, il Nobel va a Penrose, Genzel e Ghis, gli scienziati che hanno scoperto il mistero dei buchi neri. Sport, Italia protagonista all'internazionale di Francia di tennis con Trevisan e Sinner in campo nei quarti di finale. Vaccini anti-influenzali ancora introvabili in alcune regioni. Quali sono le incognite e i numeri regione per regione? Ne parliamo tra poco con il sottosegretario Sandra Zampa. Minuti di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Proviamo a spiegarvi dunque a che punto è la campagna di vaccinazione anti-influenzale per le categorie interessate in Italia, con tutte le differenze dovute alle sanità regionali. Facciamo il punto perché A fronte dell'importanza di vaccinarsi contro l'influenza di stagione quest'anno, c'è ancora preoccupazione su numeri e tempistica per l'approvvigionamento delle dosi, che fa riferimento a una programmazione regione per regione. Partiamo da chi sembra più avanti. Il Friuli Venezia Giulia ha acquistato 100.000 vaccini in più rispetto all'anno scorso, pronti a coprire il 75% dei soggetti a rischio. In Toscana è partita il 5 ottobre la vaccinazione, con un mese d'anticipo rispetto agli anni precedenti. Sono 1,5 milioni le dosi, a fronte delle 870.000 acquisite l'anno scorso. Nel Lazio sono state acquistate 2.400.000 dosi di vaccino. L'assessore alla salute D'Amato ha detto che la vaccinazione partirà il 15 ottobre. In Piemonte la campagna partirà invece il 16 ottobre, ma già dal 5 ottobre i medici di base possono effettuare la prenotazione delle prime dosi presso qualsiasi farmacia. In Sicilia sarebbero già pronte 1,5 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale acquistate dalla regione. L'Emilia-Romagna ha messo a disposizione anche delle farmacie territoriali 36.000 dosi di vaccino contro l'influenza, per non per le categorie a rischio, ma per tutti gli altri. E la vaccinazione sta partendo in questi giorni. Poi c'è chi è in bilico o in attesa. I vaccini sono in arrivo in Sardegna, dove la campagna di vaccinazione dovrebbe partire il 10 ottobre. In Puglia al momento il vaccino non c'è, ma la regione ha detto che dovrebbe farcela per il 15 ottobre. In Lombardia, regione più grande d'Italia, dopo che una serie di gare sono andate deserte o non aggiudicate, 1,5 milioni di dosi che sarebbero dovute arrivare non sono ancora disponibili. Chiudiamo questa carrellata con il presidente di Farmindustria, che proprio a Radio 24 ha detto: c'è stato un incremento del 43% delle richieste, ma ha assicurato il vaccino ci sarà per tutte le fasce a rischio raccomandate. Con noi il sottosegretario alla salute Sandra Zampa, benvenuta, buongiorno. Buongiorno, allora, ho ascoltato con attenzione. Ecco, io ho cercato, magari lei ha qualche notizia in più anche sulle singole regioni, anche sui casi più critici. La prima cosa che le voglio chiedere però, Zampa, è questa: è normale che ci siano delle differenze regioni per regioni, ma è anche efficiente questo sistema? Perché sembra che non sia proprio così. No, però questo non va affrontato adesso e riguarda tutto. Se vuole la mia opinione, io penso che è venuto il momento di ripensare alcuni dei meccanismi di funzionamento nella relazione tra Stato e Regioni in materia di salute. Penso che bisogna fare in modo che ci siano, diciamo, alcuni paletti molto chiari. Certamente uno dei vaccini è questo, quindi ad ogni modo voglio rassicurarla su un punto: sì, il vaccino ci sarà dal momento in cui è necessario che ci sia, ci sarà dappertutto. Però scusi, su questo, a questo proposito, quando è necessario che ci sia? Perché è stato detto che rispetto agli anni passati, quest'anno, proprio per vuol dire anticipare anche la stagione dell'influenza, si sarebbe anticipato di un mese. Infatti ci sono regioni come la Toscana che sono già partite. È corretto questo ragionamento o no? È corretto questo ragionamento, nel senso che va bene partire prima, va molto bene, è raccomandato partire prima. Però c'è anche da dire una questione che, guardi, mi è stata fatta presente da alcuni esperti e non è, diciamo, partorita dalla mia mente. In realtà l'uso dei vaccini, l'uso delle mascherine, così come il distanziamento, così come la igiene estrema, molto più alta ovviamente che negli anni scorsi, la mascherina per nostra fortuna non l'abbiamo mai dovuta indossare prima, diminuirà il rischio anche, quindi abbiamo anche un elemento, diciamo, favorevole. Sì. È certo che prima si parte meglio è, noi lo abbiamo raccomandato, non è che possiamo andare regione per regione a picchiare sulle mani i presidenti o gli assessori. C'è, insomma, qualche regione che la preoccupa perché qualcuno che è più in ritardo? No, sinceramente non mi viene in mente nessuno. Sono convinta che poi, come succede spesso nel nostro paese, arrancando e caraballoando qua e là, però poi si arriva al momento giusto ad avere le cose. Quello che conta è che la copertura ci sia. In realtà la dose di vaccini a disposizione degli italiani è stata aumentata del 60% rispetto allo scorso anno. Per fortuna molte regioni stanno decidendo di cederne quote maggiori alle farmacie, anche se per i fragili è, come correttamente ha ricordato il Presidente di Farmindustria, lei lo ha citato, è garantito per tutti. Ecco, quindi quando lei dice che si sta cercando di cedere delle dosi di vaccino alle farmacie, si riferisce alle categorie, si riferisce non alle categorie, diciamo, a rischio, quelle che vengono già contattate dai medici di famiglia che poi prevedono, diciamo, a prenotare la vaccinazione. Certo, lei si riferisce certo. a chi, diciamo, liberamente vuole, come è possibile fare ogni anno, fare certo, fare però il vaccino. Le voglio ricordare che anche nelle categorie a rischio ci sono alcune persone, ci sono, diciamo, non poche persone che si rivolgono alla farmacia per comprarlo a proprie spese e poi farselo magari iniettare dal medico di fiducia. Ecco, in questo caso la Regione Lazio, per esempio, ha provveduto e credo ne abbia messo a disposizione delle farmacie 100.000 unità. Lei consideri che in conferenza Stato-Regioni l'accordo che è stato trovato è complessivamente era meno di 400.000, quindi il fatto che invece la Regione Lazio sia andata in questa direzione, 100.000, capisce anche lei che ne hanno aumentate. Penso che sia anche una cosa utile, perché in realtà molti cittadini si aspettano di trovarla in farmacia, non hanno l'abitudine, è anche una questione di abitudini. Lei consideri che quest'anno ci sono i sessantenni, 61enni, 62enni, cioè 5 anni sotto, perché noi abbiamo esteso e allargato la fascia delle fragilità e quindi abbiamo previsto che dai 60, non più dai 65, quella categoria è abituata spesso ad andare in farmacia. Certo, perché rientra appunto in un uso, diciamo, non direttamente consigliato ma volontario, per cui uno va in farmacia e si fa compra la sua dose e poi se lo fa col medico di famiglia. Senta, Zampa, la ringrazio per questo, le chiedo un'ultima cosa prima di salutarci, visto che è in arrivo il nuovo DPCM, ci può anticipare, lo ha fatto stamattina Speranza, insomma, però così in sintesi cosa contiene? Beh, come le ho detto, la previsione più importante è quella delle mascherine per tutti, sempre. Evidentemente si tratta di una grande azione di prevenzione. La mascherina non dovrà essere indossata se si sta da soli nel proprio giardino, se si va a camminare in un bosco, se si guida da soli in automobile. O in bicicletta o in motorino, giusto? O in bicicletta o in motorino, esattamente. In tutti gli altri casi invece sì. Sì, perché questo renderà più uniforme sul territorio la cosa e anche oggettivamente più stringente il controllo. Cambiano le sanzioni per chi non rispetta le regole o sono le stesse? Dunque, guardi, le sanzioni non sono state inasprite, mi risulta, c'è una discussione in corso. Di certo ci sarà il rischio di essere sanzionati perché ci saranno molti controlli, quindi invito i cittadini italiani a rispettare con molta serietà questa previsione. Grazie al sottosegretario Santa Zampa. Grazie. E allora, alle 13:25 minuti, abbiamo provato a fare il punto sulla questione dei vaccini, con tutte le differenze, avete sentito, non sono poche, regione per regione, bisognerà vedere nei prossimi giorni se gli annunci poi seguiranno i fatti. Adesso invece torniamo sul voto per i ballottaggi nelle elezioni comunali di domenica, perché si è chiusa con tra i nove capoluoghi andati al ballottaggio. Il centro-sinistra ha strappato al centrodestra Chieti ed Andria, il centrodestra ha tenuto solo Arezzo, tutte le riconferme negli altri casi, dunque sembra una tornata questa delle comunali nella parte dei ballottaggi favorevole all'alleanza di centro-sinistra. Daniele Biacchessi. La maggioranza che sostiene il governo Conte, pur presentandosi in ordine sparso alle elezioni amministrative, sembra tenere all'urto della pressione del centrodestra. Il bilancio globale, che comprende regionali, primo turno, ballottaggi delle comunali, pende a favore del centrosinistra. Solo nei ballottaggi di ieri, su 106 comuni superiori al voto, di cui 15 capoluoghi, 46 vanno al centrosinistra, 24 al centrodestra, 22 alle liste civiche, 11 ad altre liste, solo 3 al 5 Stelle. A questi dati bisogna sommare l'esito del primo turno andato in gran parte ai candidati del PD e l'ultima tornata delle regionali finita sostanzialmente in parità. I numeri reali ci dicono che l'effetto esplosivo del centrodestra trainato dalla Lega tra il 2018 e la metà del 2020 si è smorzato. La Lega perde voti, ma resta il primo partito della coalizione. Fratelli d'Italia cresce e prende i voti in uscita. Forza Italia è stabile. In termini di voti, il PD è il primo partito in assoluto nel paese, ma non ha stretti alleati per formare una coalizione compatta e ampia a livello elettorale. Per il PD, dunque, il 5 Stelle resta solo un partner di governo su cui peraltro aleggia lo spettro della scissione in vista degli Stati Generali. 13:27, un aggiornamento sul fronte Stati Uniti, perché c'è un nuovo sondaggio che riguarda la corsa alle presidenziali. Ebbene, secondo la CNN, il vantaggio di Joe Biden si allunga, si amplia nei confronti di Donald Trump, perché il 57% degli elettori consultati sosterebbe Biden, solo il 41% Trump. Si tratta di un sondaggio della CNN, canale televisivo diciamo tendenzialmente più favorevole a Biden che non a Trump. Non conosco le metodologie con cui viene fatto questo sondaggio, ma insomma ce ne saranno altri, li prendiamo per quello che valgono, non moltissimo a dire la verità. 13:28, facciamo un break, torniamo tra poco e ripartiremo dall'approvazione ieri sera dei decreti sicurezza, che cosa cambia nelle politiche per l'immigrazione in Italia. 349-238-6666. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste notizie di oggi: giusto prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio, così il ministro della Salute Speranza, alla vigilia del nuovo DPCM, in arrivo l'obbligo di mascherina all'aperto. Maltempo sale a 8 il numero dei corpi recuperati fino ad ora dopo le alluvioni in Liguria. Premio Nobel per la fisica ai 3 scienziati che hanno scoperto il mistero dei buchi neri. Dopo mesi di attesa cambia il decreto sicurezza, nasce il sistema di accoglienza e integrazione, ne parliamo tra poco. Tennis, Italia protagonista all'internazionale di Francia, oggi Trevisan e Sinner in campo nei quarti di finale. minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, andiamo diritti al punto, è il momento di ascoltare le parole del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. È il vaccino anti-Covid la vera scommessa della NADEF, la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Il governo ha preso atto del rischio di ripartenza dei contagi e ha corretto un certo ottimismo, forse eccessivo, che segnava in un primo tempo una crescita del 6% nel 2021. Ora nella nota è detto chiaro che esiste anche uno scenario avverso, con il rischio che quella crescita sia rinviata di un anno, con un PIL che crollerebbe del 10,8% quest'anno e non del 9% come nello scenario più favorevole, e rimbalzerebbe solo dell'1,8% nel 2021, ben al di sotto del 5,1% che è adesso l'ipotesi di crescita più ottimistica per il prossimo anno. La vera differenza tra i due scenari è una soltanto: il vaccino. Lo scenario migliore è legato all'idea di una distribuzione delle prime fiale entro i primi 6 mesi del 2021, che farebbe rientrare tutte le misure restrittive in atto e ridarebbe così fiato all'economia. Senza vaccino, invece, rimane uno scenario da incubo. Più spesa pubblica, meno entrate, economia bloccata. I fondi europei, che sono un po' come la cavalleria dei film western, arriveranno nella seconda metà del 2021 e non è nemmeno così sicuro. Adesso, come anticipato, cerchiamo di vedere che cosa c'è nella modifica dei decreti sicurezza. Dopo mesi di attesa e di discussione, ieri sera c'è stato un primo via libera. Cerchiamo di capirne qualcosa di più con Matteo Villa, analista dell'ISPI, esperto di immigrazione. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, i decreti di sicurezza, diciamo, per semplificare, Salvini, avevano l'obiettivo di frenare quanto più possibile gli sbarchi in Italia, un obiettivo che era stato anche in parte raggiunto già prima, a dire la verità, anche l'anno prima, sotto Minniti, ministro dell'Interno. Diciamo, queste due politiche comunque rimandavano il problema di là dal Mediterraneo, di là sul continente africano, dove poi si ammassano le persone che vogliono passare da quest'altra parte. Villa, adesso con lo spostamento dell'asse politico del governo verso sinistra, con l'ingresso del PD, c'è stata molta attesa, perché si diceva che questi decreti sono inumani, che non consentono di svolgere la missione umanitaria di salvataggio all'interno del Mediterraneo. Ecco, ci sono dei titoli che abbiamo letto. Io le chiedo che cosa cambia, quali sono le principali modifiche all'interno di questa prima via libera del decreto sicurezza. Ma io ne vedo soprattutto due: uno sia il salvataggio in mare, l'altro invece ha a che fare con le politiche di immigrazione, diciamo, qui in Italia e qui a terra. E credo che sia poi l'aspetto forse più importante, anche se tutti ci stiamo concentrando sui salvataggi. Perché? Perché col secondo decreto sicurezza, appunto, si erano introdotte multe molto elevate per le, sostanzialmente, le ONG, ma qualsiasi imbarcazione avesse fatto un salvataggio in acque internazionali e poi fosse venuta verso l'Italia. Sì. E non avesse rispettato il divieto di rientrare. Ecco, in quel caso dobbiamo ricordare che, a prescindere dalle multe che poi sono state alla fine comminate un paio di volte e dai fermi amministrativi delle imbarcazioni, dovremmo ricordarci, come giustamente ricordavi anche tu, che era un anno e mezzo che ormai gli sbarchi in Italia si erano ridotti in maniera molto considerevole. Forse la considerazione da fare è che le ONG che sbarcavano migranti in Italia erano una piccola parte del totale, era soltanto il 10% le persone che arrivavano in Italia per quella maniera, e dobbiamo sempre ricordare che la stragrande maggioranza arriva in maniera autonoma, quindi chi noi sanzioniamo, chi salva in mare o non lo facciamo, dovremmo comunque gestire delle persone che arrivano, che resta. Mm. E che cosa cambia invece sul fronte, appunto, delle persone che arrivano con le navi ONG o senza le navi ONG, che sono la stragrande maggioranza, come ci ricordavi tu, in base a questo nuovo decreto che, come titolo, diciamo, abbiamo letto, nasce il sistema di accoglienza e integrazione, articolato su due livelli, uno dedicato ai richiedenti asilo, l'altro con servizi aggiuntivi, con maggiori strumenti per chi è già titolare di una protezione. E come ricordavi tu, a quel punto si crea la necessità di gestire la persona che ha ottenuto il permesso. Sì, si crea la necessità. Prima, diciamo, che avevamo deciso di tagliare soprattutto i costi in maniera diretta, e ci sta anche come ragionamento quello del taglio dei costi, però purtroppo forse bisognerebbe tagliare le origini, nel senso che se invece, quindi ridurre il numero di persone che arrivano, e ci sta a lavorare in quel senso, ma se invece diminuisci l'investimento sulla singola persona, poi rischi che quella persona, appunto, si integri di meno, trovi meno lavoro. Ma soprattutto il problema del primo decreto sicurezza, che abbiamo sottolineato molte volte, era che il togliere una delle tre protezioni che esistevano, quella che si chiama protezione umanitaria, sì, non consentiva alle persone poi di essere rimpatriate. Noi abbiamo sempre avuto un grosso problema, rimpatriamo veramente poco, per rimpatriare tutte le persone che sono irregolari oggi in Italia ci metterebbe un secolo, proprio 100 anni. Ecco, togliere la protezione umanitaria voleva dire aumentare di circa 30-40 mila persone in più gli irregolari che restano in Italia. Gli irregolari? Irregolari, sì. Quindi sì, persone che restano in Italia senza permesso di soggiorno, ma non verranno rimpatriate, quindi ancora preda del lavoro nero, di criminalità, eccetera. Quindi un po' un effetto controproducente rispetto a quello che si sperava di ottenere, invece, diciamo, stringendo le maglie. Ecco, come dicevo nell'introduzione, insomma, i decreti Salvini avevano l'obiettivo dichiarato di limitare gli sbarchi, il punto era stato anche raggiunto, ricordavamo poco fa, capire poi anche se si creava, come dire, un disincentivo a partire, o un imbuto poi in Africa. Questo, diciamo, è un altro terreno importante, perché sappiamo che in Libia ci sono grossi problemi nei campi dove queste persone vengono detenute, al di là di poi anche di queste valutazioni che sono di carattere più generale e vanno anche oltre il nostro paese. Cambierà qualcosa da oggi per quanto riguarda gli sbarchi nel nostro paese dopo questa approvazione? Ma dubito, in un senso e nell'altro, nel senso, dal punto di vista della dissuasione dei salvataggi, quindi dire no, voi navi non potete entrare, no, voi ONG non siete molto benvenuti in Italia, anche con un governo che è stato, che guardava un po' più, diciamo, con meno livore alle imbarcazioni, comunque queste, chi faceva salvataggi è rimasto fuori dal nostro paese per circa 5 giorni ogni volta invece di arrivare subito a sbarcare. Quindi da quel punto di vista credo che decreto o non decreto non cambierà molto nella prassi. Dall'altra parte, come sottolineavate giustamente, gli obiettivi, anche quelli di Salvini, erano stati raggiunti ben prima del decreto, con sbarchi che si erano quasi azzerati. Io penso che alla fine le condizioni dipendano molto non tanto dai decreti, che insomma i migranti non credo leggano, e dipendono molto da che lavoro si fa sui paesi terzi di partenza, e lì dobbiamo lavorare tanto. Sono politiche che si vedono poco, che fanno poca scalpore in Italia, ma sono quelle più determinanti, appunto proteggere le persone che sono in Libia, che purtroppo sono poche in realtà, che però purtroppo stanno molto male, e cercare, se vogliamo veramente ridurre le migrazioni verso l'Italia, di lavorare sullo sviluppo delle persone, dei paesi più poveri, e non tanto su chi è già qui. Grazie Matteo Villa, grazie. Grazie a voi. Va bene, ci sarà modo naturalmente di continuare a analizzare come cambiano i decreti sicurezza dopo questo primo via libera del governo. 13:43. Via libera ieri anche ad un altro, tutto un altro ordine di questioni. Il campionato di calcio si va avanti, ma come, Carlo Genta? È come prima, a quanto pare, perché così ha detto il ministro dello Sport Spadafora, rigoroso rispetto quasi militaresco di un protocollo che comunque resta valido. È chiaro, siamo sempre in tema di calcio e tamponi, stiamo aspettando l'esito di quelli ennesimi del Napoli per questa vicenda, stiamo aspettando, ma non arriverà almeno oggi la decisione del giudice sportivo sul 3-0 a tavolino per non essere andato a giocare a Torino, a chi è stato chiesto un supplemento di indagini, e c'è il presidente della Lega, D'Alpino, positivo, quindi è sintomatico. E poi buttiamo un occhio anche sui campi da tennis oggi, no? Oggi soprattutto sui campi da tennis, perché in giornata giocano i nostri, grande attesa per Sinner che incontrerà il re di Parigi, Nadale, poi ovviamente la Trevisan, match previsti nel pomeriggio, un programma bene, iniziato alle 11 del mattino. Bellissimo, bellissimo pomeriggio per chi ama il tennis. Grazie Carlo, ciao, con adesso. Voi l'appuntamento è dopo il GR delle 14, break, Effetto Mondo, Giulia Crivelli. Tra un attimo. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.